get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, benvenute alla nostra 102esima trasmissione. Questa sera in studio Caterina, che come al solito ci fa da fonica, supplendo le nostre incapacità mie e di Lucilla. Quindi stasera Lucilla e Rosina in studio, ma abbiamo anche ospite Pina Nuzzo, la responsabile della sede nazionale dell'UDI. Grazie Pena per essere qui con noi. E stasera appunto vorremmo confrontarci con Pina su alcuni temi che noi troviamo molto interessanti e che da sempre attraversano i nostri dibattiti politici e investono i nostri interessi e le nostre aspettative. E siamo entrati in contatto con Pina Nuzzo dopo uno scambio di documenti che ci ha permesso di mettere in evidenza le nostre reciproche esigenze. Da una parte quindi le trasformazioni avvenute nel luogo politico in cui noi agiamo, il Buon Pastore, che ci hanno spinte a rinnovare e rimettere in movimento energie e idee che ci consentano di agire in un contesto generale senza snaturarci e mantenendo saldi i principi di autonomia e separatismo che ci caratterizzano, e dall'altra la necessità delle compagne dell'UDI di proporre in previsione del 14° congresso nazionale dell'associazione un dibattito che vede fra i vari punti separatismo e rappresentanza che come è noto per adesione o per opposizione sono temi che caratterizzano fortemente le nostre scelte politiche. Ma di questo documento ci parlerà tra poco Pina. Il documento è stato prodotto insieme a Rosangela Pesenti, se non sbaglio, un'altra compagna dell'UDI, e, diciamo, per tentare di rinnovare la dialettica politica sia nelle forme che nei contenuti. Noi dal canto nostro invece vogliamo ricordare un nostro documento che è stato prodotto in occasione di una serie di incontri di gruppi separatisti, una serie di incontri che è avvenuta a Santa Severa nel 1998 e che trattava esattamente della pratica del separatismo e del dibattito della rappresentanza. Ora, questa similitudine con il documento delle donne dell'UDI ci ha particolarmente colpito perché ha di nuovo messo sotto i nostri occhi l'attualità del tema e ha riproposto la certezza che pure nelle nostre concrete differenze esistono punti e spunti di dibattito che ci legano in quel percorso che accomuna le donne che fanno politica per le donne e per la trasformazione degli spazi fisici e teorici all'interno e all'esterno dei quali operano. Dunque il nostro documento prendeva spunto dall'analisi della dicotomia dell'essere rappresentati all'esterno sia nel contesto sociale che nelle realtà cosiddette interne, senza potersi peraltro riconoscere in questa rappresentazione. Quindi, volenti o nolenti, le lesbiche vengono rappresentate da soggetti che sono altri da sé, soggetti che hanno assunto su di sé la coscienza e il pensiero di tutte le lesbiche, determinando però in questo modo l'accantonamento e la perdita delle singole individualità. Ma il separatismo e il separatismo lesbico nascono proprio dall'esigenza di partire da sé e quindi per estensione dalla necessità di autorappresentarsi sulla scena sociale. E l'assunzione di sé determina un forte senso di estraneità nei confronti di un mondo che prende forma e si sviluppa avendo come unico referente l'universo maschile e come unica forma stato la società di stampo eteropatriarcale. Le lesbiche quindi hanno un compito particolare che è quello di rovesciare il concetto di normale fondato sulla famiglia eterosessuale con il maschio dominante. D'altro canto, le analisi dei generi sessuali della famiglia operate dallo stesso movimento femminista non hanno potuto o non hanno voluto mettere in discussione l'eterosessualità come obbligatoria, sottraendo quindi al lesbismo la sua natura di altra scelta. Quindi proprio per questo diventa impossibile riconoscerci, almeno per noi, in stereotipie di genere che propongono un unico binomio maschio-femmina e la naturalità della biologia come un dato della realtà di fatto vera in quanto tale. Questo fa sì che non possiamo sentirci comprese e quindi rappresentate, pur nella comunanza di certe forme politiche, di certe espressioni, nell'azione dei movimenti, per così dire, istituzionali. E lo stesso discorso vale ovviamente anche per le dinamiche interne a quella parte del movimento lesbico che si occupa ad esempio di politiche identitarie e per estensione quindi ancora di più alla rappresentanza per eccellenza, cioè quella dei partiti politici. Dunque, partendo da queste considerazioni, e qui stringo perché mi fanno dei segnacci dalla regia, che ovviamente appunto sono solo accennate, abbiamo realizzato che la forma politica che più ci comprende non è la rappresentanza ma la delega, che si fonda sì sulla fiducia ma prevede un patto limitato e circoscritto, revocabile, preciso e sottoponibile ad una verifica continua. Con questa forma di volta in volta è possibile operare sul reale senza perdere il contatto con le delegate e mantenendo visibili le caratteristiche individuali del pensiero di ognuna delle deleganti. E proprio da questi concetti vorremmo quindi partire per comprendere come altre donne con percorsi politici diversi operano, mediano e giocano queste contraddizioni se anche loro le avvertono come proprie. Ma adesso mandiamo un pezzo musicale e poi vi lascio a Pina e Lucilla. Dunque ascolteremo Talking About Revolution e ovviamente Tracy Chapman. Don't you know we're talking about a revolution sounds? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Allora, rieccoci nuovamente in diretta, sono Lucilla e appunto entriamo nel vivo della questione con il documento che abbiamo preso in esame. Allora, la cosa che innanzitutto ci è piaciuta e che della qualcosa noi ringraziamo Pina è che questo documento è tanto più politico quanto più, almeno per noi che l'abbiamo letto, quanto ci ha permesso di poter rintracciare, individuare fili di un discorso politico che noi stesse abbiamo fatto. E quindi il nostro interesse a dialogare con Pina in questo momento, perché Pina è qui, ma quindi con le donne dell'Udi in generale, è questo, è quello di andare a riscoprire, a ritrovare, dopo aver enfatizzato per tanto tempo le differenze, i percorsi diversi, andare a rintracciare anche quei fili comuni dei percorsi delle donne, delle associazioni, delle singole, ma comunque delle donne che ragionano intorno alla politica e che evidentemente sono tanti. E non mi voglio dilungare più di tanto, però vorrei intanto leggere un pezzettino del documento in questione, per poi chiedere a Pina di intervenire. E sono stralci, quindi, del documento. Un punto che io ho trovato molto bello a proposito delle sedi politiche e dei luoghi importanti per le donne come momenti e punti di incontro è questo. Dal documento: oggi sentiamo che le nostre parole hanno bisogno di luoghi in cui radicarsi, luoghi in cui far vivere forme di socialità tra donne che abbiamo intuito e sperimentate come dimensione indispensabile per quell'attenzione al bene comune al quale ne ancora richiamiamo la politica. Luoghi fisici, concreti, che ci sottraggano all'ambiguità di immaginarci libere, di pensarci abitando la dipendenza materiale. Per noi questo discorso è vero rispetto alla battaglia che abbiamo fatto per la Casa Internazionale delle Donne e che a tutt'oggi facciamo, perché lì rimanga vivo anche il luogo separatista, e quindi che il centro femminista separatista e le donne che abbiano voglia di incontri anche separati abbiano un luogo fisico riconosciuto, possibile, accessibile, fruibile. E per Pina com'è? Questo lo chiediamo a lei. Allora, io intanto vorrei ringraziare anche Rosina per la premessa che ha fatto, e nella sua premessa Rosina dice che noi ci siamo incontrate attraverso dei documenti, e adesso lo ripete anche Lucilla, ed è vero, ed è una cosa abbastanza curiosa che delle donne che in una città si incrociano, si trovano, accade la sera dell'8 marzo a vedere un film, a una cena. Eppure per parlarci abbiamo avuto bisogno di due documenti. E io ho portato il documento a cui faceva riferimento Lucilla, che è un documento preparato nell'Udi da me e da Rosangela Pesenti e che avvia il 14° congresso dell'Udi. L'ho portato perché ho avuto modo, per caso devo dire, di avere in mano un volantino del coordinamento lesbiche romane e mi aveva molto colpito un passaggio, il passaggio in cui questo gruppo si dice disponibile a discutere e a parlare con altre donne e con altri gruppi. Questa cosa sembrerebbe una banalità, dovrebbe essere l'ovvio. In realtà è da un po' di tempo che tra gruppi di donne, tra storie anche sedimentate, non c'è rapporto. E quindi trovo molto bello che noi questa sera ci troviamo a parlare qui, noi qui 3-4, ma con tante altre donne, a partire da pezzi di carta. Quindi vuol dire che abbiamo scritto delle cose che vanno oltre la carta, oltre i computer, si direbbe oggi, e comunicano. Perché io penso che la cosa importante del parlare e quindi del fare politica è proprio quello di metterci in comunicazione, perché la politica è l'unica forma, è una delle forme che abbiamo per modificare le nostre vite poi di fatto. E quindi tu, nella domanda che mi facevi riferendoti a quel passaggio dello scritto, ti riferisci alle sedi, in realtà. Certo, alle sedi. Immediatamente nella, ecco, l'Udi è un'associazione di donne presente nel territorio italiano dal 1945, non ha mai smesso di esistere, eppure quando io mi presento da qualche parte, dovunque vado, mi sento dire: ma l'Udi esiste ancora? E questo perché noi, pur avendo mantenuto politica e luoghi fisici della politica, abbiamo a un certo punto della nostra storia immesso una interruzione, una rottura con una tradizione politica che è stata quella di rompere con un modo organizzativo di avere la politica. E quindi abbiamo chiuso con una certa forma di rappresentanza. Noi a un certo punto abbiamo scelto di non parlare più in nome delle donne, perché c'erano anni in cui bastava chiedere a Ludi un documento e allora quel documento era il documento delle donne italiane. Noi invece volevamo che le donne, proprio sulla base della nostra esperienza e i gruppi di donne che in quegli anni venivano avanti, sto parlando degli anni 80, praticamente subito dopo l'onda lunga del femminismo, volevamo che ogni donna all'interno del proprio gruppo e della propria storia si esprimesse. E quindi abbiamo fatto come organizzazione, ma non come associazione, un passo indietro e ci siamo mescolate alle varie realtà, ai gruppi che nascevano, ai centri delle donne, alle varie forme di associazione. E abbiamo sempre ritenuto importanti i luoghi della politica, cioè le sedi fisiche sono non solo importanti perché ti consentono di incontrarti, ma preoccuparsi di pagare l'affitto, sostenerle, fare politica all'interno di una sede che si sceglie di avere, è un impegno che ti insegna come si fa la politica. E questo noi intendiamo quando parliamo di separatismo. Cioè, non, chiaramente non credo che oggi il separatismo possa essere semplicemente dire quest'uomo entra o non entra, non credo più sia questo il punto. Anche se anche questo, non è che sottovaluto questo passaggio del separatismo. Credo però che oggi la questione vera del separatismo è la capacità che abbiamo di essere contrattuali come soggetto politico. Esatto, su questo noi condividiamo. E infatti, non so se è il momento di mandare un pezzettino musicale e poi riprendiamo questo discorso, perché per noi è estremamente importante. Ed è Tony, no, Nene Cher, Woman. Allora, riprendiamo la discussione da dove l'abbiamo lasciata. Compina che ha detto una cosa molto importante, per esempio su quello che riguarda la gestione dei luoghi politici e l'imparare a far politica anche a partire proprio dalla gestione stessa. E una cosa che a me va di dire a proposito appunto del separatismo, che è per me e per noi come gruppo un punto, un caposaldo, un aspetto importantissimo del fare politica, del nostro fare politica, è che ed è per questo che noi abbiamo poi scritto quel documento che ha menzionato Pina, su l'importanza di ritrovare un dibattito anche a partire dal confronto su che cosa intendiamo per separatismo e come si gestiscono quindi le sedi che vogliamo separate, perché separate non significa fuori del mondo, significa avere dei luoghi privilegiati. Anche questo spazio in radio è un luogo per me privilegiato di tipo separatista. Allora, tornando ai luoghi, per noi è importante anche farli vivere, farli conoscere, renderli attivi con le donne che ci sono dentro, perché finisca anche questo spauracchio, questo spavento, questa paura che spesso le donne hanno nel dire quel luogo è solo di donne, quel luogo è un ghetto. Io voglio stare libera nel mondo, ma stare libera nel mondo, e riprendo il passo di cui abbiamo parlato prima, di Pina, del documento, del loro documento, cioè luoghi fisici concreti che ci sottraggano all'ambiguità di immaginarci libere, di pensare abitando la dipendenza materiale. Ed è la dipendenza materiale perché non puoi gestire direttamente, autonomamente, sperimentare questa gestione, ma devi sottostare a delle regole che sono sempre quelle, sono inamovibili, e sono quelle dei luoghi che sono cosiddetti misti, cioè per uomini e per donne, ma in realtà le regole poi sono dettate da un eteropensiero, come lo definiamo noi, e un pensiero consumistico, un pensiero il pensiero dell'apparenza, dell'apparire, e non un pensiero dell'essere, dello stare. Quindi, allora, Lucilla, tu hai messo molta carne al fuoco. Sì, molte cose in questo pensiero. Io vorrei partire da due passaggi per me importanti, e che sono anche in quello scritto. La gestione di un luogo comporta prima di tutto una responsabilità delle donne che abitano quel luogo, e che quindi hanno la responsabilità di fare politica e di fare una politica in proprio che non sia una politica in opposizione. La politica in opposizione può essere in opposizione rispetto ad altri gruppi di donne o alle donne che sono venute prima. Io credo che sia arrivato il momento per le donne di una certa generazione politica, la mia per esempio, che non è neanche tanto di donne giovanissime, anzi dovremmo già essere in condizioni di lasciare un'eredità anche noi, è quella di pensare una politica da adulte, e quindi sapere che si sta nel mondo con tutte le mediazioni che il mondo e la politica ti richiedono. E faccio degli esempi così ci capiamo. Quando dicevo che l'UDI ha una grande esperienza di sedi proprio fisiche, non solo qui a Roma ma su tutto il territorio nazionale, dico anche che abbiamo avuto in questi anni esperienze diverse di sedi, cioè alcuni luoghi sono rimasti luoghi di stretta politica, diciamo così, di gruppo di riflessione, al massimo di qualche elaborazione di tipo culturale, si direbbe, no? Altre invece hanno scelto di fare della propria sede un servizio. Quest'oggi, con questa cosa, noi oggi facciamo i conti andando a un congresso, e facciamo i conti perché ci sono dei pro e dei contro, nel senso che alcune hanno trovato un modo, attraverso il servizio che si fornisce, di sostenere anche la propria sede. È chiaro, questo lo vorrei sottolineare, che noi per statuto e per storia non chiediamo finanziamenti per la sede, per le nostre sedi o per la politica dell'UDI, ma per dei progetti. Questa cosa però, se non è sostenuta da una politica forte, da una reale presenza sul territorio e da un rapporto con le donne, finisce per svilire, cioè per farci vivere, noi stesse ci viviamo in miseria e come un ghetto. proprio perché capiamo che laddove il passaggio da servizio a politica non riusciamo a farlo è perché non siamo sufficientemente capaci di leggere dove siamo. E anche l'altra cosa che secondo me è importantissima è quella di uscire fuori anche da un gergo della politica. Noi in questo momento credo abbiamo bisogno di farci capire da tante più donne, perché credo che sia arrivato anche il momento di confrontarci con le donne che non stanno dentro i luoghi della politica delle donne, perché secondo me sono donne che sono a volte anche più avanti di noi, grazie alla politica che noi abbiamo fatto. Però il fatto che noi spesso ci muoviamo guardando alle altre e immaginandole come simili non ci fa vedere quello che noi stesse abbiamo messo in piedi. Quindi la prima cosa con cui dobbiamo fare i conti è proprio quella di non fare una politica che sia di opposizione, ma neanche di il separatismo non può essere vissuto come una forma di difesa. Beh, non è così, infatti, non è così per noi, torno a ripetere, a parte che anche tu stai centrando una serie di tematiche che per noi sono di estrema significanza. Quando si parla per esempio della politica dei servizi, ecco, allora anche nella sede della Casa Internazionale delle Donne, questo è stato un dibattito molto, molto intenso all'interno in questi anni di costruzione di questo progetto, e noi ci siamo sempre viste, noi dico noi come coordinamento lesbiche romane, ci siamo sempre viste in una posizione, ci siamo sempre messe o abbiamo sempre avuto una posizione interlocutoria, sì, ma anche critica rispetto a questo organizzare le attività delle donne intorno principalmente a dei servizi che si fanno con le donne o si erogano per le donne, perché anche questo è un elemento sicuramente importante, sicuramente all'interno del quale le donne si possono misurare, ma non ci si può sostituire intanto a una funzione che probabilmente è la società che deve avere, e per certi versi, e noi semmai si dovrebbe avere un ruolo guida rispetto a dei servizi che dovrebbero essere magari altrove, non dentro o non esclusivamente nelle sedi delle donne, no? E quindi è diverso, no? E poi snatura un po', oppure si corre il rischio che snaturi la politica delle donne, perché se il processo culturale per me passa soltanto attraverso un pensiero che faccio su di me, un'assunzione di pensiero che io faccio, che è legato all'ottenere o all'avere o all'elaborare un servizio, ritorno su o sto sempre all'interno di una logica che è quella molto orientata, diciamo, dal pensiero dominante, che è tipico per le donne. Le donne, cioè il rapporto delle donne con il mondo è quello, erogano dei servizi, fanno dell'assistenza e via discorrendo. Su questo aspetto, e non è solo questo naturalmente, però questo lo troviamo abbastanza stridente, o quantomeno non sufficientemente pensato, perché poi noi stesse quando facciamo delle attività forniamo anche dei servizi alle donne, però quello che noi ci poniamo è sul fare queste attività, è il servizio che noi vogliamo mettere al centro è l'avanzamento politico-culturale, cioè il creare pensiero. Quindi è questo che noi cerchiamo di rendere, tra virgolette, servizio per le donne. E ritornando all'idea del separatismo, io credo che siamo arrivati appunto nel nuovo millennio e sia arrivato il momento di fare il punto della situazione su il percorso del separatismo. Il separatismo non è rimasto quello che era nella fine degli anni 70 o gli anni 80, l'inizio degli anni 80. Si è evoluto, è cambiato, ha tenuto il passo, non è una questione di evoluzione, ha tenuto il passo con i tempi, con le situazioni, si è misurato con quello che c'era e quindi si è colorato dei bisogni e delle necessità e di quello che le donne volevano in quel momento. Torno a ripetere, questa è una trasmissione che io ritengo, noi riteniamo separatista, la facciamo a Radio Onda Rossa, che è una radio non separatista, non è fatta dalle donne, ma è un modo di procedere, è un modo di pensarsi, è un modo di mettere su le iniziative. Io vorrei che noi stessimo attenti però a non sovrapporre due concetti: il separatismo, su cui io sono d'accordo, credo che il separatismo è una di quelle pratiche che vanno mantenute, su questo per me non ci sono dubbi. C'è però un'altra questione che si sovrappone, che è quella, è una ambiguità, chiamiamola, di tutto il femminismo, non ludi e di tutte, e di certi anni, che è stato quello dentro fuori le istituzioni. Noi abbiamo sempre oscillato su questa faccenda. Allora aspetta Pina, mandiamo magari un pezzettino musicale ancora e poi ragioniamo su questa cosa delle istituzioni, perché è così. Va bene. Allora adesso sentite Cyndi Lauper in True Colors. Allora, dopo questo breve stacco riprendiamo proprio da quest'altro argomento interessante che sta introducendo Pina. Stiamo forse un po' uscendo da alcuni argomenti all'interno, cioè nel senso da alcuni passaggi del documento, però non importa perché sono altrettanto importanti e interessanti. Ma poi sai, quando si parla succede sempre così, certo. Si anticipa oppure certo. si sposta, cioè, un po'. Infatti mi interessa questa cosa perché è stato uno dei dibattiti centrali di un certo periodo e che si è trascinato nel tempo rispetto al rapporto con le istituzioni, no? E quindi cosa significava il separatismo rispetto alle istituzioni? Allora, io credo che, appunto, come ti dicevo prima, che non bisognerebbe sovrapporre queste due questioni, e partiamo da quello slogan oppure da quell'atteggiamento che si aveva, appunto, dentro o fuori. Erano anche anni in cui l'UDI aveva proprio la funzione di essere una cerniera, proprio perché l'UDI per sua tradizione e per sua pratica politica comunque aveva dei legami, anzi molte donne, molti quadri politici dell'UDI poi dopo passavano dall'UDI nelle istituzioni. Questo ci consentiva di avere un legame con le donne presenti nelle istituzioni. Ricordo questo per dire che proprio questo legame, questa forma di essere, questo modo di essere presenti ci ha consentito di agire molto quando si è votata la legge, la 194, la legge per l'interruzione volontaria della maternità. Quindi questo però lo metto un attimo da parte, perché la cosa che mi interessa dire è questa, che proprio questo nostro oscillare non ci ha fatto leggere con chiarezza alcune leggi che in questi anni sono state votate in Italia. Vuole dire, la legge sull'associazionismo, che ha via via escluso la possibilità per le donne, per un certo tipo di associazionismo, di accedere alle risorse, è il vero problema. Quindi noi ci troviamo ad essere dei gruppi, delle associazioni di donne che avrebbero diritto di accedere alle risorse. Femministe e lesbiche, su questo non ci sono dubbi. Certo. Però il fatto che ci siamo disinteressate di un iter legislativo fa sì che oggi noi ci ritroviamo ad accedere solo se siamo se forniamo un certo tipo di servizi, se siamo il più vicine possibile a una forma di volontariato. Ora, il problema non è tanto di entrare nel merito delle scelte che alcune di noi hanno fatto, io non credo che questo ci porti da nessuna parte, è più invece utile tornare a riguardare quelle leggi e fare in modo che non vengano operate ulteriori forme di restrizione, perché certo. Invece secondo me noi donne dobbiamo avere accesso alle risorse. Ma per esempio un modo di accedere alle risorse, noi su questa cosa ci abbiamo ragionato un po', nel senso nelle situazioni di quasi di come ti posso dire, di scene, durante le scene, per esempio dire, ma com'è possibile che durante, per esempio per quello che riguarda la denuncia dei redditi, il 730, il 740 eccetera, l'8 per 1000 vada o debba andare necessariamente in mano alla Chiesa nelle varie forme che c'ha eccetera, e non alle associazioni di donne. Non alle associazioni di donne, questa è una cosa assolutamente assurda per quello che ci riguarda. E infatti io credo che ci sia questa possibilità. Invece, per esempio, anche, e lo dico così, insomma, poi naturalmente non è, però ci siano molte possibilità di poter ragionare intorno al come accedere alle risorse, come accedere, perché e perché non fare delle battaglie su questo piano. No, per me, per noi, non solo per me, per noi questo discorso è un discorso estremamente aperto. L'accesso alle risorse però è chiaro che non deve avvenire, questo lo dicevo prima per l'UDI, non può avvenire sulla politica, no? Cioè, non è che io, ma su un progetto preciso. Su, certo. E questa... Questo però ci obbliga a fare una politica che sia anche legata alla visibilità. Cioè, certo. Un'altra delle questioni grosse che noi dell'UDI abbiamo in questo momento, infatti quando dicevo prima mi dicono ma l'UDI esiste ancora, e perché avendo fatto tutta quell'operazione sull'organizzazione ma mantenendo l'associazione, oggi ci troviamo a dover fare un lavoro sulla visibilità, cioè rimetterci in gioco, confrontarci con le donne, con tutte le donne, e riprendere in mano quel per le donne, quell'espressione che noi, per le donne, che abbiamo anche molto banalizzato negli anni passati, abbiamo cercato di evitare questo passaggio. Ecco, io credo che riprendere questo sia un atto di responsabilità verso la storia che tutte noi abbiamo alle spalle, perché non ce l'ha solo Ludi, ce l'avete anche voi, e tutte insieme abbiamo anche una memoria delle cose che abbiamo fatto e che oggi secondo me è tutta da riprendere. Per noi questa storia del per le donne è ancora una volta estremamente significativa, perché qui si intrecciano vari discorsi che sono contenuti nel documento, no? Per esempio l'importanza o la necessità che non si perda la storia, come voi dite nel documento, che non si sia nella condizione di ripartire tutte le volte da zero e che ci sia la possibilità e la capacità di noi donne tutte, quindi anche di noi donne lesbiche, perché a maggior ragione lo scontiamo, e ora poi dirò meglio perché, questo fatto di trasmettere, di non solo farsi diventare, ma di trasmettere da una generazione all'altra, come circolarità, come passaggio tra le donne dei saperi. E per noi donne lesbiche questa cosa è tanto più importante perché la società, la cultura, così come sono congegnate, non prevedono la possibilità della scelta sul piano sessuale, e non sul piano del sesso, ma sul piano proprio del desiderio e dell'amore, no? E quindi esiste l'eterosessualità, che è un obbligo, non sono io che lo dico, ma l'hanno detto tante altre donne e tante teoriche, insomma, a questo punto, come Adrienne Rich, per esempio, che è obbligatoria, non è prevista quindi altra possibilità, che addirittura è una scelta naturale. E questo dibattito non c'è mai stato, non è mai stato sufficiente all'interno del movimento delle donne e delle lesbiche, per cui c'è una dimenticanza, un'assoluta non visibilità, come dicevi tu prima, no? E la visibilità passa o attraverso degli esempi eclatanti oppure con le cosiddette icone, no? La famosa tennista, insomma, sì, La Navratilova era un'icona, no? È rimasta, è tuttora un'icona per le donne lesbiche. Quindi questa questione della visibilità è importante, la ritroviamo nel vostro documento, così nel nostro percorso, e quindi niente, è un altro aspetto. Però io personalmente non vorrei svicolare su una cosa. Tu prima dicevi, hai detto una cosa, qualcosa a proposito dell'essere naturale, no? Io credo che per le donne non ci sia niente di naturale. Esatto, sono d'accordo. Né nell'eterosessualità né nel lesbismo. Quindi forse la cosa vera, la parola più difficile oggi per me da riempire è l'essere donna. È su questo, secondo me, che noi possiamo ritrovarci e anche ripensare la politica. Sì, una cosa sola volevo dire, a proposito proprio della naturalità, ci portiamo dentro un bagaglio. Io fino a poco tempo fa, uno dei vocabolari, parlo di una decina d'anni fa, uno dei vecchi vocabolari che circolava in casa di miei genitori, di mio padre, lo andai a consultare alla parola donna, riportava testualmente femmina dell'uomo. Quindi è in questo senso, allora, da lì che dobbiamo ripartire, quindi certo. Questo è vero, tanto vero anche per noi. Certo. Parte un altro brano, poi daremo la sigla e poi ancora un poco parleremo con Pina, la sfrutteremo perché è venuta qui e quindi vogliamo dire ancora, non la lasciamo andare via facilmente, grazie. The smile can't disguise the look of love that says so much more than just words could ever say. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Wasn't right, I was stupid for a while. Riprendiamo? Allora, noi stavamo continuando a ragionare su queste cose e niente, se posso, certo, andare un po' avanti. Vai, con... vai pure. Allora, un altro passo che io ho trovato molto molto bello. Intanto è quello in cui voi vi siete poste il problema, la questione di tradurre la parola politica nell'esperienza di ognuna, che è stata quello di contraddistinguere il percorso delle donne nel tempo, non soltanto per le donne, come dicevi prima, ma anche per ripartire da ognuna da se stessa e quindi dalla propria esperienza, dando all'esperienza di ciascuna donna il valore di essere inedita, di essere profondamente culturale, un'esperienza culturale e un'esperienza politica. Questo da una parte, così come la questione che voi vi ponete del rapporto tra generazioni diverse, che è l'altro problema che abbiamo noi, quello che accennavamo prima, cioè di non pensare di essere l'unica lesbica al certo. mondo tutte le volte che tu incontri te stessa in questa scelta che fai, no? E ecco, intanto questi due aspetti, per voi come sono stati all'interno dell'organizzazione, perché è un percorso certo. storico che avete fatto e adesso tu hai anticipato ancora rispetto a questa esperienza, cioè al tradurre in parola politica l'esperienza di ognuna e il significato che ha avuto prima e ha ora per voi nel percorso che state facendo. Allora, il documento a cui tu hai fatto riferimento è un documento scritto da due donne dell'UDI, e sono io e Rosangela, che siamo due donne che sono arrivate all'UDI attraverso il femminismo, cioè noi eravamo giovanissime quando siamo arrivate all'UDI, proprio perché in quegli anni, erano gli anni 70, quindi c'era questo respiro profondo che era il femminismo, che come dire attraversava tutto e tutte. E e abbiamo trovato un'associazione che esisteva già, che aveva una storia, una politica e anche delle presenze, cioè ancora oggi all'interno dell'UDI convivono donne della mia generazione, anche più giovani, non tantissime, ma ci sono anche donne più giovani e donne che l'UDI l'hanno fondata. Questo tipo di convivenza non è facile. Perché richiede dei passaggi, cioè il modo in cui l'UDI agisce l'autorità al proprio interno, le donne dell'UDI agiscono all'autorità, è molto, passa attraverso la competenza proprio politica, l'esperienza, l'esporsi continuamente. Quindi ognuna di noi per arrivare a misurarsi, a confrontarsi con donne che hanno più esperienza, più storia e quindi anche più autorità, ha dovuto esporsi sul pensiero della politica. Il luogo, uno dei luoghi della palestra di questa esperienza è l'autoconvocazione, cioè l'assemblea periodica che noi abbiamo avuto dall'undicesimo congresso in poi e che ci ha consentito di misurarci. C'è un passaggio ulteriore però che noi dobbiamo fare, che è quello di pensare la politica oggi, cioè di pensare una forma, perché quello che le donne prima di noi hanno fatto, e di questo bisogna ringraziarle, è stato quello di fare un passo indietro e lasciarci la possibilità di andare avanti, senza però, e questa è la cosa straordinaria dell'UDI, la cancellazione fisica delle donne, perché questo è veramente insopportabile. In genere nel mondo maschile avviene questo, no? I passaggi di generazione avvengono con la cancellazione oppure con l'eliminazione del figlio, voglio dire, è reciproca la lotta, è nei due sensi, no? Padre figlio, figlio padre. Tra le donne nell'UDI questa cosa abbiamo cercato di evitarla. Questo congresso che noi affrontiamo è straordinario in questa esperienza proprio perché due donne qualsiasi dell'UDI, come siamo io e Rosangela, cioè lei vive a Bergamo peraltro, quindi due donne all'interno dell'autoconvocazione si sono assunte questa responsabilità. Se la sono assunta evidentemente con il sostegno dell'autoconvocazione e di tutta l'UDI, perché in questo momento tutte sentiamo l'esigenza di ritornare a dire un noi collettivo e a restituire una visibilità all'associazione. Però è innegabile che se non ci fosse stato quel momento in cui l'UDI si è modificata sul piano dell'organizzazione, due donne qualsiasi non avrebbero potuto fare questa operazione qui, ma sarebbero stati due quadri con tutte altre caratteristiche e con tutt'altro potere o comunque storia. Ecco, questa è la cosa straordinaria che le donne possono fare, non solo l'UDI, questa è la cosa che l'UDI può mettere e può comunicare a disposizione, può mettere a disposizione, sì, delle altre. Sì. Un'altra cosa che mi piaceva del vostro documento è questo passaggio rispetto alle politiche radicate sul territorio e le diverse forme di politica e la necessità che sono state vere, attuali in questi ultimi 10 anni, vere per voi come sono state vere per noi e noi, vari gruppi separatisti, perché la nostra esperienza è di alcuni gruppi separatisti che stanno in giro per l'Italia, che si misurano con esperienze legate al loro territorio e solo con quelle, diciamo, tra virgolette solo con quelle, perché poi ci sono dei passaggi evidentemente ugualmente, che con una gelosia del mantenere o del conservare, sì, questo elemento singolare della propria esperienza territoriale, no? Come sacrosanta, legittima, eccetera. E però una necessità adesso che noi sentiamo, che come tu hai letto nel nostro appello, perché quello che il documento era un appello, noi chiediamo alle altre donne che si ritorni a riflettere anche sul generale e non solo sullo specifico del proprio territorio, in una situazione politica generale evidentemente molto cambiata e che ci richiede di fare una riflessione più generale, ma anche perché è stato un momento storico ed evidentemente adesso si deve passare anche ad altro. E questo questo passaggio l'abbiamo ritrovato nel vostro documento, ed era quello che mi piaceva, no? Sì. Di rintracciare costantemente questi percorsi. Ecco, se ci vuoi dire qualcosa. Sì, su questo io vorrei aggiungere che noi abbiamo avviato un percorso congressuale con l'idea di fare la fotografia dell'Udi oggi, e quindi c'è un percorso, noi abbiamo un congresso che praticamente durerà un anno, per questo abbiamo chiamato percorso congressuale, perché niente di quello che facciamo oggi è a caso, cioè qualsiasi gesto, anche venire qui oggi, è all'interno di un percorso congressuale. E abbiamo avviato, insieme ai temi di cui poi mi piacerebbe anche parlare in un'altra occasione, abbiamo avviato un censimento dell'Udi, perché noi abbiamo diverse realtà che si muovono autonomamente, ed è giusto che ogni gruppo si muova autonomamente, però è anche giusto che questo gruppo si colleghi a quella realtà di cui utilizza anche il nome, perché oggi i nomi non sono casuali, senza senso, certo, o senza peso politico, certo. E quindi andare in un comune e chiedere dei soldi perché sei dell'Udi, non hai neanche necessità di spiegare cosa sei, perché l'Udi è un nome. Allora, su questo certo la libertà dei gruppi va mantenuta, però dobbiamo anche ritrovare la capacità di stabilire un patto tra di noi per capire quale soggetto politico vogliamo essere, certo. E quindi il censimento, noi abbiamo chiamato censimento proprio perché vogliamo andare sul luogo e non solo abbiamo bisogno dei nomi delle donne, sapere proprio materialmente chi siamo e quante siamo, ma che politica abbiamo in testa. Sì, sì, ed è questo anche che contraddistingue noi, perché tutti i gruppi impegnati, i gruppi di lesbiche separatiste impegnate sui gli svariati territori nazionali, tra Bologna, Milano, Roma, Bari, quindi coprendo la realtà complessiva dell'Italia tra nord, certo, centro e sud, Roma ovviamente, siamo tutti impegnati nella politica, in quella che noi definiamo la politica culturale, che è il modo di far politica cercando di scardinare una cultura dominante, cercando di portare il nostro sapere e il nostro portato culturale. E anche vedere le nostre complicità comunque. Esatto, anche quelle naturalmente. Sì, allora un ultimo brano, ci aggiorniamo con Pina, la ringraziamo. Grazie profondamente. A voi. Voglio dire prima dell'ultimo brano che ci è arrivato un'email dalla Libreria delle Donne di Via dei Fenaroli 31 di Roma, che mercoledì 15 maggio, cioè domani, dalle 18.30 alle 22, ci sarà una mostra di oggetti dalle mani delle donne nel mondo, quindi abiti, oggetti, sciarpe, tutto in mostra per chi vorrà andare a vedere tutto quanto. L'ultimo pezzo musicale è Melissa Etheridge, I Took You With Me, e vi aspettiamo dopo domani sera al Buon Pastore in via San Francesco di Sales 1B per il secondo appuntamento con il film a tema con Les Bollywood, dalle 21.30 e poi Lo Schermo Velato di Rob Epstein e Jeffrey Friedman. È un film canadese del 1995 che parla dell'omosessualità ad Hollywood. Intervenite. Past the devil's own temptation, beyond where angels sleep, to the holy invocation of a neon city street. I feel your hand, I hold you, through your eyes I see, my love. sulla stupenda voce di Melissa Etheridge, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Abbiamo estorto a Pinanuzzo la promessa di venire un'altra volta a fare un'altra trasmissione. Ci auguriamo che questo argomento sia stato interessante per voi così come lo è stato per noi, quindi appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutte dal coordinamento Lesbiche Romane, e come diceva giustamente Lucilla, vi aspettiamo numerosissime all'iniziativa che abbiamo preparato di Les Bollywood, con la proiezione dello schermo velato giovedì al Buon Pastore, ricordando anche che l'ingresso è riservato alle donne. The journey led me here, but I have made a promise that I